Io ho trascorso oltre 13 mesi in prigione, in custodia cautelare in Ungheria, e questo incubo è terminato solo grazie alla mia elezione e all'ottenimento dell'immunità parlamentare. In quanto attivista antifascista e quindi oppositrice del regime di Orban, mi sono ritrovata imputata in un processo fortemente condizionato dal potere politico. Infatti è stata orchestrata una vera e propria campagna d'odio nei miei confronti, con continue dichiarazioni diffamatorie volte a influenzare sia la magistratura che l'opinione pubblica, esponenti del governo ungherese, membri di Fidesz e dei Patrioti non perdono occasione per definirmi pubblicamente una criminale o una terrorista, invocando pene esemplari. Sebbene il processo non abbia nemmeno raggiunto il primo grado di giudizio, sono già stata dichiarata colpevole dal potere politico. Il 9 ottobre sono intervenuta durante la seduta plenaria del Parlamento europeo, criticando la presidenza ungherese del Consiglio, e in tutta risposta il signor Viktor Orban ha inoltrato la richiesta di revoca della mia immunità parlamentare esattamente il giorno successivo, a dimostrazione dell'utilizzo di questa vicenda giudiziaria per finalità politiche. Ho denunciato alle autorità competenti le condizioni di detenzione degradanti, irrispettose dei diritti fondamentali e degli standard europei, nonché la violazione del principio di innocenza nei miei confronti. Queste gravi criticità sono state rilevate anche dalla magistratura italiana. Infatti, il 28 marzo 2024, la Corte d'Appello di Milano ha rifiutato la richiesta di estradizione di Gabriele Marchesi, un cittadino italiano indagato per i medesimi fatti. Sia il procuratore che il giudice hanno evidenziato che la carenza sistemica rilevata risulta particolarmente impattante nel caso concreto e potrebbe dunque gravare seri pregiudizi alla vita del consegnando anche a causa delle sue opinioni politiche. In sostanza, il rifiuto si basa su un concreto rischio di trattamento inumano e degradante, oltre che di violazione dei diritti fondamentali. Viene inoltre sottolineata la notevole sproporzione fra la pena prevista e i fatti contestati. Attualmente, Gino, cittadino albanese e italiano senza cittadinanza, anche lui accusato di fatti avvenuti a Budapest nel 2023, è stato arrestato in Francia e rischia di essere estradato in Ungheria su richiesta delle autorità magiare. Mi auguro che le autorità francesi tengano in considerazione quanto deliberato in Italia e, analogamente, affermino la subordinazione della cooperazione giudiziaria al rispetto dello Stato di diritto e dei diritti umani. Sotto il governo illiberale e autoritario di Orban, dove la magistratura è influenzata dal potere politico, non sussistono le condizioni affinché gli antifascisti possono affrontare un processo equo e rispettoso dello Stato di diritto. La mia vicenda ha già dimostrato ampiamente che ciò che si cerca non è la giustizia, ma una punizione esemplare e una vendetta politica. Pertanto, le estradizioni degli antifascisti verso l'Ungheria devono essere fermate immediatamente. La cittadina tedesca attivista Maya non avrebbe mai dovuto essere estradata e deve essere riportata in Germania il prima possibile.